Riassumendo, mi sembra che le parole chiave di Peraspera 2019, chiaramente umanità, però Sì. anche produzione, co-creazione È lo spettatore che cambia sempre più il suo ruolo, dove non è più uno spettatore passivo, ma diventa sempre più stimolato dagli artisti a diventare attivo nel performance, ma a volte anche creatore della performance stessa. Questa è una cosa molto importante che sta venendo fuori dalle nostre call. Ciao. E che capiamo che ultimamente, visto che facendo le call, noi abbiamo la possibilità di capire come si muove un po' il fermento, e questa è una cosa che sta venendo fuori. Tutti gli artisti stanno muovendo con la possibilità di dialogare con il Con il pubblico. pubblico. Quindi in realtà posso permettermi un piccolo salto concettuale dicendo che il nodo centrale di un'umanità da ritrovare passa per la partecipazione attiva. Assolutamente sì, certamente. Perfetto. Certamente. Prima edizione con una call for places, Sì, è giusto? la prima edizione che abbiamo fatto anche questa cosa, perché avevamo pensato un'intuizione di Maria Donnoli, questa di non solo cercare artisti, ovviamente, che questo ci dà la possibilità di scoprire novità anche, nuovi fermenti, ma anche di fare questa call for places che ci dà la possibilità di capire se ci sono dei luoghi che hanno voglia di ospitarci, anche perché noi siamo abbastanza particolari, è un festival abbastanza, sì, che ogni anno c'ha un suo tema, che è nomade, che quindi visto anche così, no? Un po' particolare. Ok, che del resto però ormai essendo giunto alla Dodicesima. dodicesima edizione, nomadico particolare ma comunque apprezzato Sì, per perché fortuna Bologna mi sì. sembra che ci creda e il territorio Sì. risponde bene. La Call for Places vi ha portato anche a luoghi che non vi aspettavate, immagino. Beh sì, questo di Castel del Rio ci è piaciuto molto, abbiamo fatto in modo che fosse dentro il festival. Perfetto.